estrapolazione dalla vita mia, estrapolazione dalla vita mia. Esco da un cinema, rivelo l'assassino, il blu mi fa paura, il mondo mi fa paura, la notte scende, io corro da te. Ma tu non ci sei mai, perché vivi la notte, sei sempre fuori, ma senza di me. Estrapolazione dalla vita mia, la mia vita è un inferno e non capisco il perché. Vorrei innamorarmi, andare verso l'ignoto, un progetto impossibile da creare con te. Ma la gente mi fa paura e anche il buio mi fa paura, tutta la solitudine che è dentro di me. Spaccare il mondo, distruggere il tempo, far l'amore al contrario anche senza di te. Sole che sorgi dietro alle montagne, illumina il cammino anche per me. Sento fluire il sangue nelle vene, un nuovo vigore sale dentro di me. Estrapolazione, la gente mi urta. Estrapolazione senza un perché. Esco dal cinema, rivelo il finale, questa notte mi inghiotte ma senza di te. Perché tu non ci sei mai, condividi il mio assassino, ti dilegui nella notte, la tua casa è vicina e io salgo da te. Facciamo l'amore senza mai parlare, solo baci nella notte senza un perché. Come una rosa dei venti segniamo la rotta verso il futuro che per adesso non c'è. Sole che sorgi dietro alle montagne, illumina il cammino anche per me. Sento fluire il sangue nelle vene, un nuovo vigore sale dentro di me. Se vuoi il mio indirizzo è il numero 5 alla fine del bar, dove mi siedo con gli angeli persi, sfidando la sorte e la notte che va. E se vuoi il mio indirizzo sia il numero 5 alla fine del bar, dove mi siedo con gli angeli persi, sfidando la sorte e la notte che va. Perché tu non ci sei mai, condividi il mio assassino, ti dilegui nella notte, la tua casa è vicina, io salgo da te. Estrapolazione, estrapolazione, estrapolazione, estrapolazione. Perché tu non ci sei mai, condividi il mio assassino, ti dilegui nella notte,